Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siamo noi di 451 Frammenti Sonori che rientrano come diciamo da scaletta predisposta nel 2011 nello spazio domenicale dalle 23.35 circa, dunque riprendiamo e dunque ci scusiamo anche con gli ascoltatori, ma non dipende assolutamente da noi, del fatto che la scorsa domenica non abbiamo potuto mandare in onda la nostra trasmissione a causa appunto della diretta continua fino a notte fonda per le primarie del Partito Democratico a Bologna. Non c'entriamo nulla, questo penso che almeno coloro che ci stanno ascoltando da un po' di tempo lo sappiano, anzi anche di più, comunque non andiamo troppo dentro i particolari perché poi sennò il buon Max qua a fianco mi dice che voglio sempre fare queste buttate lanciate così, tipo acqua sporca nel catino pieno di merda. Va bene, comunque un saluto da Max Macchia. Se dici così però ci sbagliamo definitivamente. No, ma sei sempre un po' velleitario, ecco, io voglio fare la rivoluzione in sostanza. Capito, vabbè, però nel frattempo che si possono fare qualche battuta, sarà un po' velleitario. No, ma forse insomma, tutta la nostra, perdoni, forse tutta la nostra esistenza potrebbe anche essere considerata velleitaria. No, in un'ottica militare. Comunque, un saluto da Max Macchia e da Eliseo Scarpa. Ecco, un incipit dei miei quando sto un po' così esaurito, al di là forse più che esaurito, arrabbiato, ma andremo forse, chissà, in questo tema di trasmissione, chissà se finiremo su quell'argomento. Chiaramente 451 frammenti sonori sotto la neve, dentro la neve, attraversati da questa meravigliosa neve, parte in pompa magna questa serata di fine gennaio per la trasmissione. Missione 451, tema di stasera, l'abbiamo voluto chiamare con questo gioco di parole che ama tantissimo Max, ma anche forse di matrice futurista barra situazionista, avant traditional, questo è il gioco, ma fondamentalmente il tema è quello connesso ad avanguardie e tradizioni. Non vogliamo assolutamente fare quel o comunque indurre a un equivoco legato appunto a tradizione, avanguardia, una sorta di commistione poco dialettica, non entriamo in questo campo. Si vuole fondamentalmente costruire un percorso sonoro oltretutto attraverso quattro macro aree geografiche, affrontando dunque partendo dalle Americhe per attraversare poi l'Africa, arrivare all'Asia e chiudere all'Europa, quattro macro appunto aree, cercando appunto di sviluppare una dialettica fra elementi tradizionali che possono essere sia strumenti tradizionali ma anche strutture, linee, melodie, strutture ritmiche legate alle tradizioni delle musiche popolari, folk, o anche etniche in generale, per ovviamente in stretta correlazione con l'aspetto delle avanguardie e delle sperimentazioni musicali, partendo da questa materia così plasmabile, e attraverseremo appunto un percorso piuttosto lungo. Ha suonato, ma era un segnale, va bene. Allora, entriamo subito a bomba, come si suol dire, attraverso una bomba, e con il primo autore dentro, partendo dalle Americhe. Sì, come diceva appunto il buon Eliseo, non tratteremo la faccenda in maniera postmoderna, quindi con quel crocicchio di avanguardia e tradizione che era soprattutto legata a una certa world music, magari spinta anche verso la new age. E in effetti iniziamo facendo un giro che vogliamo far partire dalle Americhe. Jack Rose, grande e autore purtroppo scomparso qualche mese fa, uno dei menestrelli alla John Fay, alla Robbie Basho, che ha ripreso il finger picking per farlo diventare una sorta di corda infinita di musiche che trasformano le tradizioni americane, quindi il girovagare per il mondo, l'obos, il cantastorie, che soprattutto durante il periodo della Grande Depressione andava in giro per l'America raccontando storie di povertà e anche comunque di grande dignità, appunto legato a questi momenti storici terrificanti. Ma d'altronde insomma il capitalismo ci ha abituato a questo e di nuovo insomma ci fa rivedere la faccia sporca, per fermarci qua e dire soltanto sporca, perché sennò altro che sporca qua. E Jack Rose un po' riprende appunto quella chiave tra traditional e sperimentazione avant, come appunto quella di John Canfeo, Bibascio, e trasforma negli anni zero questa grande tradizione, questo grande portato classico in musiche astratte ma veramente di grande sentimento, di grande sentire. Jack Rose dal suo ultimo album, prima appunto che purtroppo ci abbandonasse, che abbandonasse questa valle di lacrime, ma c'è qualcuno insomma che fa anche un bello sforzo per farci piangere e ci riesce pure per il momento, chissà, poi magari tra qualche tempo piangerà pure quello lì, chissà, lo diciamo la romana, piangerà. Luck in the Valley, Jack Rose, disco del postumo del 2009 dopo appunto la morte di Jack Rose, per iniziare il nostro viaggio dentro Avant Additional con l'America. E siamo rientrati in diretta dopo questo splendido viaggio da parte del grande Jack Rose, un disco splendido questo che abbiamo voluto omaggiare attraverso questo, appunto, omaggiare un grande artista, un grande musicista che appunto fa parte di una categoria piuttosto ampia che riprende ovviamente il discorso folk in una formulazione anche nuova, aperta a dimensioni anche ipnotiche, sperimentali, riferendosi soprattutto a Jack Rose in primo luogo, al grande John Fay, che abbiamo anche visto attraversare le lande desolate di 451 frammenti sonori, oltretutto anche i Pet, con cui ha avuto anche dei rapporti diretti lo stesso Jack Rose, chiaramente è un trio, quello dei Pet, che appunto lavorava su parti anche droniche, fondamentalmente droniche, riprendendo chiaramente dimensioni folk, non solo in dimensioni, diciamo, legate alla terra americana, ma anche a terre più vicine all'Oriente. Un grande musicista, dunque Jack Rose, che abbiamo appunto voluto anche ricordare, essendo scomparso da circa un anno a questa parte, anche lui se n'è andato oltretutto molto giovane, musicista che ricordiamo originario dalla Virginia e poi successivamente si è stabilito a Filadelfia, che è comunque una terra ricca di stimoli musicali e sicuramente l'aspetto anche noise dronico dei Pelt, dove appunto lui faceva parte, era uno degli elementi fondamentali del progetto, era sicuramente presente. Abbiamo ascoltato ovviamente un disco che è del 2010, proprio quello di chiusura dello stesso Jack Rose, Luck in the Valley, uscito postumo alla sua morte, ma registrazione ovviamente nell'anno 2009, uscito tutto per un'etichetta che spesso attraversa 451, cioè la Trill Jockey. E da Jack Rose, rimanendo sempre in terra americana, dunque atmosfere che ricordano forse proprio le lande desolate degli Stati Uniti d'America, troviamo un'altra formazione importante che appunto trova anche lei stessa una dialettica molto forte tra elementi appunto tradizionali e musiche d'avanguardia. Sì, tutto unito da una follia incredibile, quella di Sun City Girl, follia che riesce a passare attraverso un folk rivisitato in maniera assurdista, musiche americane che vengono elaborate in maniera assolutamente originale e con non tanto quel taglio postmoderno che è ravvisabile in molta new wave, che è anche americana, che è riuscito a prendere insomma anche delle cose tradizionali per poi rivederle, rivisitarle in una certa qual maniera. I Sun City Girl partono proprio invece anche da un discorso decisamente filologico, poi attraverso appunto quasi una sorta di demenza voluta e perseguita anche in maniera pervicace, riescono ad arrivare a musicalità non perdendo l'originalità in tutti i sensi, insomma, del termine, quindi anche come origine, come tradizione, dentro però appunto un nuovo modo, un così curioso mondo musicale che ricorda la tradizione, ma sposta anche decisamente lo sguardo e anche l'orecchio a questo punto verso veramente lande sia desolate sia folli e ogni tanto anche lunari. In questo caso andiamo a prendere come quello di Jack Rose un blues, così sentiamo anche i due modi di trattare le tradizioni americane blues. Thank you. purtroppo siamo dovuti rientrare perché un brano appunto che abbiamo voluto mixare al lavoro dei Sun City Girls purtroppo salta in maniera invereconda, per cui non, sinceramente che ci facciamo questi CD, misteri della fede, anche perché nella preparazione questo problema non c'era, però si vede che questi bellissimi CD di nuova generazione o di vecchia generazione, che ormai non li fanno più, stanno rendendo praticamente al minimo, per cui dopo un ascolto rischiano di rovinarsi a questo punto. Robe tristi che succedono, ci scusiamo. Il brano che avete potuto ascoltare solo in parte è uno splendido lavoro di Chris Brown, Rogue Wave, lavoro uscito nel 2005 per la Zadig. Sentiamo anche sottofondo un altro brano che però si distanzia molto rispetto all'idea di stasera di Avant Traditional, un disco invece Rogue Wave che all'interno, tra cui appunto la traccia che avevamo selezionato, trova questa interazione molto interessante tra elettronica, dimensione addirittura raga e dimensione appunto di flussi legati a musiche medio orientali, mischiate anche musiche indonesiane e dell'America da cui proviene lo stesso Chris Brown, e inserito ovviamente in un contesto che è quello di ricerca che ha portato avanti questo pianista in realtà e musicista che ha lavorato oltretutto con grandi musicisti anche della musica legata alla musica elettronica e anche della musica contemporanea, realizzando e creando delle performance piano con di James Stanley, Harry Cowell, Luke Ferrari, oltre al fatto di aver lavorato anche nell'ambiente più squisitamente legato addirittura anche al free jazz della scena di San Francisco. Brown in questo lavoro Wave ripercuote un po' la dimensione connessa anche in una dimensione prospettica futura, mischiata appunto quasi a una dimensione primordiale legata alle origini, e dunque costruisce questo ponte comunicante fra passato, presente e futuro sull'aspetto musicale, ed era molto interessante il brano che purtroppo abbiamo ascoltato solo in pochi minutaggi. E ora ci dobbiamo spingere subito a presentare il prossimo, che è sempre di terra americana, anche se lavora in questo disco in una dimensione più squisitamente legata alle ritmiche africane. Si tratta di Lucas Ligeti. Lucas Ligeti che non è uno strano refuso o una omonimia, ma è proprio il figlio di Georg Ligeti, grande compositore di musica contemporanea. Lucas Ligeti porta avanti dagli anni 90 sperimentazioni legate all'elettronica, ma in particolar modo appunto a questa commistione tra elettronica, musica d'avanguardia e elementi e dimensioni tradizionali legate soprattutto alle ritmiche, alle musiche africane. E il disco appunto si chiama African Machinery, uscito nel 2008 e rappresenta direi in maniera quasi compiuta l'esperienza e le ricerche che ha portato avanti il compositore, figlio del ben più noto compositore Georg Ligeti. Sì, c'è da dire poi il fatto che sicuramente il Ligeti figlio ha una portata comunque europea, che gli proviene dal grande percorso, uno dei percorsi tra l'altro più importanti del Novecento. Tutti ricordiamo il padre ad esempio per Lux Eterna, dal storico film di Kubrick, quel vociare intenso che cresce in maniera spasmodica tale da creare veramente grandi atmosfere di tensione, ma non solo, una sorta di ascensione. E dentro le musiche del figlio Lucas Ligeti sicuramente c'è questo aspetto ascensionale, questa ricerca appunto di crescita sonora anche emotiva che attraversa questo splendido disco dedicato lontanamente alle musiche africane, ma con quel senso appunto euroamericano, potremmo dire occidentale, che comunque poi anche mettendo insomma e sottolineando la faccenda che i Ligeti provengono dalla terra dell'est, quindi anche per quelle particolarità che da sempre hanno connotato le musiche del Novecento dell'Est Europa, soprattutto quelle legate insomma all'avant, all'avanguardia. Se pensiamo ad esempio alla grande Béla Bartók, che per tanti versi apre un certo modo, e forse questa sera è un po', noi facciamo sempre il giochino di dare una sorta di padre putativo alle trasmissioni, quasi sempre lo facciamo. Béla Bartók per tanti aspetti è un po' il padre putativo del discorso avant tradizionale, perché il suo discorso, la sperimentazione nel corso dei primi decenni del Novecento, fu proprio legata ad aprire alle musiche tradizionali, alle musiche folcloriche, alle musiche barbariche quasi della propria terra, e quindi a queste ritmicità selvagge che rompevano gli schemi delle vecchie partiture classiche e davano appunto un nuova linfa e nuovo materiale da sperimentare appunto a nuovi compositori che, come Bartók, ma potremmo citare anche lo stesso Stravinsky, spostandoci ancora più a est, e con la Sagra della Primavera, proprio questo riuscire a lavorare in maniera futuristica, però attraverso appunto un uso quasi barbarico, quasi primitivo, folclorico, del materiale appunto folclorico della terra dell'est Europa. Ci andiamo a ascoltare quindi con questa bellissima sperimentazione, chiamiamola così, vaghezza sulle terre africane, che poi attraverseranno la seconda parte di 451, che riprenderemo dopo il GR di Radio Popolare, che scatterà dopo i brani tratti da African Machinery, che l'ultimo elemento da inserire è appunto della ricerca appunto di queste ritmiche tribali ossessive. C'è anche una vera e propria iterazione anche di un certo minimalismo che emerge indiscutibilmente dalla composizione di Ligeti. Lo sentirete in maniera molto chiara, questo ipnotismo tribale assolutamente ipnotico, che riparte appunto attraverso queste linee ridondanti ritmiche che verranno appunto rappresentate soprattutto nella prima traccia che ascolterete. Intanto ascoltiamoci Lucas Ligeti, da African Machine. Thank you.